Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Pancia, misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. Una collina sotto il cielo. Nei modi di dire, la pancia è considerata la sede principale delle emozioni o dei sentimenti, al pari o ancora più del cervello. Non a caso di una persona antipatica, diciamo, che ci fa venire il mal di pancia, definiamo viscerale, che affronta le situazioni con grande coinvolgimento emotivo, etichettiamo come un tipo di pancia che è molto deciso, impulsivo. E che dire delle farfalle nello stomaco che tutti noi abbiamo provato, magari in occasione di un incontro emotivamente coinvolgente? La ragione è semplice, come spiega Gershon, considerato uno dei padri della neurogastroenterologia. Il nostro benessere psicofisico è largamente condizionato da una relazione molto particolare, quella tra intestino e cervello, due organi che lavorano in modo autonomo, ognuno fa quello che deve fare, ma si parlano in continuo e di continuo, consigliandosi e condizionandosi reciprocamente, come un po' due vecchi coniugi. Di questa coppia straordinaria parliamo oggi con una coppia di esperti. In studio con me oggi la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta. E qua in studio abbiamo anche il piacere di avere il dottor Roberto Sterzi, neurologo a Milano. Dottor Sterzi, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, su Facebook vi abbiamo chiesto di raccontarci con tre aggettivi che cosa hanno in comune cervello e intestino. Potete farlo anche voi continuando a scriverlo su Facebook, potete seguirci su Twitter, l'hashtag di oggi è i due cervelli, e come sempre potete chiamarci all'800 24 0024. Vi do un ultimo numero, che è quello per inviare messaggi che leggerò nel corso della trasmissione: 349 238 6666. Vi leggo anche alcuni aggettivi che sono arrivati su Facebook. Loredana: sensibili, reattivi, pronti. Questi sono per Loredana i tre aggettivi che accomunano cervello e intestino. Silvino invece è stato più breve, ermetico, ha detto filo diretto. Non... Francesca: fondamentali, sorprendenti, misteriosi. Mentre Katia ci ha scritto: entrambe fanno ragionamenti. Il cervello lavora di pancia e la pancia ti manda segnali di tutti i tipi al cervello. Dottor Sterzi, insomma, questa è una strana coppia, perché all'apparenza cervello e intestino sono diversi, innanzitutto sono lontani, sono chiamati a svolgere dei compiti differenti, invece alla lunga vediamo che si assomigliano, e come dice il vecchio detto, chi si somiglia si piglia, proprio come nelle coppie. Eh sì, ai più non è noto che l'intestino contiene una sorta di internet, di connessioni, di reti neurali, e funziona come un computer in grado di elaborare un'enorme quantità di informazioni e di individuare subito la migliore risposta possibile. E questo lo rende un vero e proprio cervello autonomo. Quindi hanno ragione Loredana, Silvina, Francesca e Katia, perché in qualche modo il cervello intestinale è più antico e fondamentale per la sopravvivenza animale del cervello della testa, per la ricerca del cibo, per vivere. Ma pensiamo solo al neonato, che succhia il latte materno senza esserne consapevole. E questo rende il sistema dell'intestino molto simile al cervello, e questi due cervelli sono interconnessi e si parlano fra loro. In un certo senso si condizionano a vicenda, è vero, come una coppia. Per esempio, l'intestino manda dei segnali al cervello, ma il cervello, attraverso il sistema nervoso autonomo, condiziona il funzionamento dell'intestino con il simpatico, per esempio, quello che prepara il corpo all'attacco, alla fuga, e rallenta le funzioni intestinali, o il parasimpatico, che si associa al riposo e alla digestione e che facilita le funzioni intestinali, specie attraverso il nervo vago. E questo spiega le strane sensazioni di pancia che accompagnano le espressioni del nostro inconscio, perché ciò che non va nella testa, cioè di cui non siamo consapevoli, ha effetto poi sull'intestino, che ne diviene il portavoce. E questo spiega perché noi abbiamo delle espressioni per esprimere, per dire come le nostre emozioni condizionano, per esempio, delle impellenze di funzioni fisiologiche, con la paura, il cosiddetto farsela sotto, oppure la nausea e il vomito per ciò che ci disgusta, mi sta sullo stomaco, non mi va giù. E quindi c'è una relazione molto stretta, sia nel normale che nella patologia, certo, come nel morbo di Parkinson. E a sua volta anche ciò che non va nell'intestino influenza la testa, come la cefalea per la cattiva digestione o l'intolleranza alimentare o la depressione. Quindi, dottoressa Salvioli, l'intestino, come ci ha raccontato il dottor Sterzi, è un portavoce del cervello. Le piace questa metafora? Mi piace, perché in effetti se lei pensa che tutte le nostre azioni quotidiane che sono sottoposte a stress, penso agli studenti che devono sostenere degli esami, oppure quando si ha un colloquio lavorativo, oppure quando si esce con qualcuno di nuovo e quindi c'è una forte emozione, la prima cosa in chi è predisposto, perché ovviamente non a tutti colpisce in questa maniera, ovviamente si hanno delle ripercussioni a livello dell'intestino, quindi con tutte le manifestazioni che ha detto il dottor Sterzi, giustissime. Quindi noi stiamo dicendo a chi ci segue da casa, che invitiamo a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24. Attenzione, forse quel problema che avverti alla pancia potrebbe essere un problema di testa, o viceversa, quello che potrebbe essere un problema, un mal di testa, il classico è il mal di testa quando non si ha, magari non abbiamo digerito, o quando abbiamo lo stomaco chiuso perché siamo particolarmente stressati, si riverbera anche a livello cerebrale. Ma quindi, dottoressa Salvioli, è una comunicazione bidirezionale, esattamente. Tra l'altro l'anno scorso è uscito questo importante studio in cui hanno seguito i soggetti per 12 anni e hanno visto che chi aveva di base un livello di ansia e di stress e di depressione sviluppava nel corso degli anni delle malattie a livello dello stomaco e dell'intestino, quelle che noi chiamiamo funzionali, quelli della cosiddetta somatizzazione. Sì. Per contro, chi partiva con dei disturbi intestinali ma non aveva delle caratteristiche psicologiche ben definite come l'ansia e la depressione, la sviluppava nel tempo. Cioè, vuol dire che se i soggetti continuano a stare molto male, negli anni diventano anche molto ansiosi. Per cui non è vero che quando uno ha questo tipo di malattie deve essere etichettato come stressato, probabilmente è stressato anche a causa della malattia. Dottor Sterzi, lei che pensa? Sono assolutamente d'accordo. Ci sono alcuni aspetti, per esempio intestinali, che riguardano situazioni viceversa che partono dal cervello. Per esempio, durante l'emicrania, uno dei sintomi caratteristici è la nausea e il vomito, ma non perché è lo stomaco che sta male, ma perché qualcosa parte da zone profonde del cervello. Ed è la stessa cosa che succede nella vertigine o nel mal d'auto o nel mal di mare. Quando io vado in barca non è il mio stomaco che non va bene, è lo stomaco che riceve dei segnali nervosi che ci portano poi ad avvertire quello che noi chiamiamo nausea o vomitare. Dall'altra, Il nostro intestino esprime anche qualcosa di profondo. Per esempio, volendo banalizzare le fasi di sviluppo infantile freudiane, potremmo dire, per paradosso, in questa fase molto particolare, che l'avidità è frutto di una fase, quella anale, dello sviluppo freudiano, e che quindi l'avaro è, fra virgolette, stitico. Infatti i generosi vanno dovunque gli capita, per esempio, si svuotano, se parliamo di intestino, esattamente, nel senso che io dico sempre ai pazienti che molto spesso l'intestino è il segno di come sei di carattere, chi è timido, chi è restio, non si lascia andare, per cui tende a diventare più stitico, come ha detto il dottor Sterzi. Questo, sì, questo è 800 24 0024. Quindi l'intestino aiuta anche a interpretare il carattere. Sì, sì. Che carattere avete? E quindi è una domanda per dire come funziona il vostro intestino. Sapete, quando il dottor Cox è di buon umore, emana una specie di vento rinfrescante che solleva il morale di tutti quelli che tocca. Oh, che giorno scoppiettante! ma quando sta bene lui, stiamo bene tutti. Si potrebbe dire così dell'intestino, che secondo le ultime ricerche governa anche il nostro umore. E dico di più, nutre la nostra felicità. Dottoressa Salvioli, il merito sarebbe di un neurotrasmettitore che tutti noi conosciamo come, il termine non è proprio corretto, ormone del benessere, che è la serotonina. Esattamente. Se lei pensa che il 95% della serotonina è prodotto a livello intestinale, questo te la dice lunga sulla importanza di questo neurotrasmettitore, per cui tutto quello che viene prodotto in quella zona a livello di neurotrasmettitore ovviamente influisce il cervello. E la serotonina è coinvolta in numerose importanti funzioni biologiche. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Sara Farnetti. Buongiorno, medico internista e nutrizionista. Tutto il suo ultimo libro, tutto quello che sai sul cibo non è vero, invece è vero che la serotonina è implicata in numerose funzioni. Assolutamente sì, la serotonina è definita l'ormone della serenità, della calma, è quella che controlla il senso di fame, ma non solo, il ritmo sonno-veglia, la soglia del dolore. La serotonina non è solo un neurotrasmettitore, è un po' di più, appunto l'ormone che ci fa stare bene, in senso lato. E appunto, come dicevi tu Nicoletta, a tavola si fabbricano le emozioni, e quindi la serotonina appunto non solo a tavola, abbiamo detto anche nell'intestino si fabbricano le emozioni, ma a tavola sicuramente è un'occasione per migliorare il nostro stato, sicuramente. Allora, dottoressa Farnetti, quindi a tavola ci sono, possiamo scegliere degli alimenti che ci aiutano a mantenere buoni livelli di questo neurotrasmettitore. Ma addirittura oggi si parla di comfort food, cioè di alimenti che dobbiamo scegliere, mettere nel piatto se vogliamo stare bene. Sì. E sono gli alimenti che appunto, contenendo il trittofano, che è il precursore della serotonina, poi aumentano i livelli di questo neurotrasmettitore quando li assumiamo al cervello. Quali sono? Quelli che contengono più zuccheri, tra l'altro, tipo la pasta, il riso, ma non sono gli zuccheri i nostri alleati, è il triptofano, una parte proteica di questi cibi, quindi non lo zucchero semplice, ma appunto un bel piatto di pasta, sempre i nostri 80 grammi, magari mangiato la sera, è quello che ci fa dormire meglio. E guarda un po' caso, però piccole quantità di zucchero migliorano l'assorbimento del trittofano, quindi questo, diciamo, l'ingresso a livello del sistema nervoso. Questi cibi non sono però solo quelli consueti, quindi un piatto di riso, ma per esempio stagionali, mi viene in mente un piatto di spinaci crudi, o pensa a un piatto di zucchine crude. E mangiare un etto di spinaci sicuramente non equivale a mangiare un piatto di riso, ma a livello di contenuto di trittofano è molto simile, e quindi diciamo ci viene comodo anche per la linea. E poi le mandorle, gli anacardi, un cucchiaino di miele, il famoso miele nel latte, che è sedativo, perché il latte, contenendo il trittofano, con un cucchiaino di miele, magari anche qualche mandorla, può diventare la pozione magica per dormire meglio e svegliarsi il mattino con un buon umore. Ricordiamoci che tutti i contraccettivi orali, quindi la pillola oppure l'assunzione di cortisone per motivi medici, possono interferire invece con i livelli di serotonina, e quindi ahimè anche disturbare uno stato del sistema nervoso, quindi il buon umore. E quindi noi in questi casi ci ricordiamo degli spinaci, degli anacardi, riso, delle mandorle, la zucchina alla julienne condita con dell'olio extravergine d'oliva e del limone, diventa digeribile, gradevole, proviamola, e soprattutto poi è ricca per la stagione estiva di potassi, di minerali che sono utili. Fantastico, grazie dottoressa Farnetti, buona giornata. Buona giornata. Noi andiamo a Giorgio, che ci chiama da Trento, poi Marino da Pavia. Intanto molti mi stanno scrivendo: io ho buon carattere e continuate a farlo. 800 24 00 24. Buongiorno Giorgio e benvenuto. Buongiorno, salve anche a voi. Buongiorno. Eccoci. Mi domanda una cosa: a me succede da diversi anni, 2 o 3 volte all'anno, ad esempio mi sveglio la mattina tranquillamente con un leggerissimissimo mal di testa che va ad aumentare durante la giornata, e se io dovessi mangiare pomeriggio a volte o addirittura la sera, a parte che magari non ho voglia, però solo gola, mangio e mi si blocca tutto sullo stomaco. Allora vorrei capire appunto se è un problema di stomaco che magari già dall'inizio mi fa venire mal di testa, o il contrario, è la mal di testa, c'è qualcosa che non va e mi blocca lo stomaco. e la sera devo o liberarmi, quindi forzare un vomito, o devo fare il digiuno completo e andare a letto col mal di testa, perché sennò mi rimane tutto sullo stomaco. Esatto. Dottor Sterzi, deve fare un po' Sherlock Holmes della situazione. Sì, una spiegazione, forse magari banale, però certe volte è quella aiuta. Giusta, è che ci siano delle intolleranze alimentari. Cioè, se è una cosa che succede sempre comunque con qualsiasi tipo di cibo, forse no. Ma se fosse possibile, ecco, il suggerimento che darei al nostro ascoltatore è di tenere una sorta di tabella in cui annota i cibi che ha mangiato e la comparsa del mal di testa. Se c'è una correlazione fra determinati cibi, magari, non so, cioè se per esempio ci possono essere delle intolleranze a particolari cibi, oppure addirittura ci sono casi di celiachia che si manifestano anche in questa maniera. Sì, no, sono d'accordo. Mi fa pensare il fatto che venga dopo colazione al mattino, mi fa pensare probabilmente ai latticini, al lattosio. Si sa che l'intolleranza e il deficit di lattasi, che è l'enzima che scinde il lattosio, nelle popolazioni mediterranee è molto frequente, per cui probabilmente dipende che tipo di colazione fa. Quindi bisogna annotare magari che cosa si mangia e poi provare per brevi periodi a eliminare l'alimento che noi pensiamo essere incriminato per brevi periodi e provare un po' come va, come stiamo, e poi semmai parlarne anche con il medico. Ma a Giorgio suggeriamo: Giorgio, scriva quello che mangia e poi cerchi di capire se ci sono delle relazioni. Marino, buongiorno da Pavia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Che carattere ha Marino lei? No, il carattere è buono. Sì, è buono, quindi vuol dire che l'intestino, devo dire, se la cava, secondo sì, su quello non c'è problema. Io volevo portare la mia esperienza, cioè io sono il classico, faccio le mezze maratone, però io d'inverno mi chiudo in casa e faccio i 3 mesi e il mio cuscino dell'amore lievita. Allora adesso in primavera riprendo a correre, sì. Però ho notato che non serve a nulla correre, cioè se non faccio la dieta sto benedetto, fa benedetta pancia, non scende assolutamente, bisogna farlo, ma non serve la corsa se non abbinata a una buona dieta. Marina, questo rientra nel fatto che è stato già visto da tempo che l'attività fisica in sé per sé, in termini di dimagramento, quindi riduzione del calo ponderale, non è efficace se non si associa una dieta ipocalorica. Poi dipende dal tipo di disturbo. È chiaro che più sei allenato, più sei dipendente dall'attività fisica, e poi l'attività fisica ovviamente fa bene per tante altre cose, per cui io direi sì, questo è giustissimo ed è stato ormai assodato questo. E tra l'altro fa bene anche per tenere ben alti i livelli di serotonina, certo, l'attività fisica. Quello, no? Che pochi considerano è che la serotonina è il mediatore chimico su cui vanno ad agire i farmaci antidepressivi. Quindi la gente paradossalmente preferisce prendersi il Prozac, sì, piuttosto che sviluppare quelle attività, l'attività fisica è una di quelle, che innalzano, oppure la dieta, abbiamo avuto ampi esempi, che innalza la serotonina. Un'altra cosa ancora sono certe forme di meditazione, no? Cioè dalla meditazione trascendentale a quello che si chiama mindfulness, alla consapevolezza, il Kabat-Zinn, esatto, che già di per sé aumentano la serotonina. Quindi il problema è che tante volte è più semplice prendere una pastiglietta invece a muoversi, a meditare, certo, a cambiare stile alimentare ci vuole un pochino di impegno, bisogna un po' mettersi in gioco. 800 24 00 24, fatelo anche voi, chiamate il nostro numero verde. Oggi cerchiamo di capire come funziona questa straordinaria coppia che, come una coppia di vecchi coniugi, si condiziona a vicenda, si parla, e allora cerchiamo di capire perché alcuni disturbi che abbiamo a livello intestinale magari possono essere originati da pensieri che abbiamo su, in alto, nel cervello, quello che sta racchiuso nella nostra scatola cranica. Essere e benessere. Mamma mia che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà chissà perché. Dottoressa Salvioli, mamma mia che mal di pancia, viene per una serie di ragioni, perché mangiamo troppo, perché siamo magari intolleranti, perché siamo sotto stress, le ragioni sono diverse, ma dottoressa Salvioli, se la pancia continua a fare male diventa poi irritabile. Esatto, continua a irritarsi per qualsiasi cosa che noi mettiamo dentro con il cibo. Le faccio un esempio: i virus intestinali che ci sono d'inverno, che irritano perché possono causare un po' di infiammazione nella parete intestinale, con un aumento della permeabilità, quindi più cose passano e irritano. Questo determina dei mal di pancia, si parla delle queste forme irritabili post-infettive, e questo vuol dire che il soggetto negli anni è più sensibile. Infatti non a caso molte persone che prendono per esempio i bambini quando ci sono le salmonellosi o delle infezioni generalizzate, per esempio agli asili, alle scuole, con le mense, può succedere, questi diventano nel tempo più sensibili. Quindi infatti ti dicono: io ogni virus che passa lo prendo alla pancia. Io. Esatto. 800 24 00 24, se la vostra pancia è particolarmente sensibile o forse anche condizionata dalla vostra testa. Andiamo a Roma perché c'è Stefano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Siamo qua. Allora, Stefano, ecco. Sì, sono qui, mi sentite? Sì. Venga la domanda, allora, Stefano. La premessa è questa: io ho fatto anche una coloscopia un paio di anni fa e era tutto a posto, tranne che il medico mi ha detto che ho una sindrome da colon irritabile. Sì. Questo? E questa l'ha buttata un po' giù di morale? Dalla voce sembrerebbe no? Diciamo che parlando con conoscenti, eccetera, io poi vengo da una famiglia di medici, la cosa mi era già stata accennata e ne ho avuto conferma appunto dopo la colonoscopia. Allora, il mio problema è questo: soffro quasi quotidianamente di fastidi intestinali che hanno come conseguenza una iperformazione di gas nell'intestino. La qualcosa, come facile immaginare... Beh, crea abbastanza imbarazzo e disagio, Stefano. Crea un grosso disagio nella vita sociale. Certo, e comunque anche a Stefano, dottoressa Salvioli, come lei aveva anticipato, hanno detto, beh, hanno fatto la colonoscopia, tutto regolare, ma il problema è che lo stress acuisce, aumenta questo problema. Allora, c'è una via di uscita? No, diciamo sì, che è giusto fare diagnosi di colon irritabile con endoscopia negativa, perché la diagnosi è proprio quella di esclusione, cioè io escludo di avere una patologia organica ben definita, la colonoscopia. Tutto il resto è intestino irritabile. La gente è molto spaventata da questa diagnosi perché in realtà non c'è una terapia mirata, unica e standard per i pazienti. Infatti alcuni preferiscono avere qualcosa, un'infiammazione, così la curi. Certo. Per cui ogni terapia vanno individualizzate e ascoltando bene il paziente e capendo, per esempio, in questo caso di eccessivo meteorismo, che è uno dei sintomi che maggiormente la gente, bisogna innanzitutto indagare sull'alimentazione, capire se c'è un'alterazione della flora batterica intestinale, che è molto importante per il benessere del nostro intestino, e correggerla eventualmente dando dei probiotici o comunque degli integratori. Ecco, questo ogni per il sintomo predominante, cioè quello che le dà più fastidio al paziente, dà poi la terapia giusta. Andiamo a Venezia. Fernanda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Senta una cosa. Sì. Io allora... Il mio problema è questo, che soprattutto, io ho un po' di irritabilità. Scusi, io sento un doppio No, e forse allora Fernanda, facciamo così. Noi la sentiamo bene, ma evidentemente lei non si sente. Allora noi chiediamo alla regia di richiamare Fernanda e ci spostiamo a Napoli. Un'altra telefonata, questa volta arriva da Davide. Buongiorno Davide, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie. Nicoletta, quello che volevo chiedere ai vostri ospiti lì è questo. Sì. Io in pratica questo problema, le situazioni particolarmente, diciamo, stressanti o che mi creano un po' di tensione, un po' di ansia, mi generano una forte nausea Sì. insomma, con vomiti, quindi una sorta di somatizzazione di quelle che sono le situazioni difficili da affrontare e che nella vita di tutti i giorni è Ce ne sono. un po' limitante, Certo, insomma. immagino. Quindi volevo semplicemente sapere qualche, insomma, consiglio, Qualche rimedio consiglio che per. arriva dal dottor Sterzi, che aveva proprio, caro Davide, sottolineato anche questo aspetto, questo segnale, no? La nausea, tante volte parte proprio dal cervello. Assolutamente sì, va sempre dato il consiglio di escludere che non concomiti un problema allo stomaco, cioè quindi una valutazione da parte del medico la farei perché magari questo signore necessita di gastroprotettori o di curare un problema gastrico. Certo è che lo stress eccessivo e l'incapacità di far fronte allo stress può avere ripercussioni sullo stomaco. In questi casi bisogna lavorare con le tecniche di rilassamento, Sì, per sicuramente. esempio il training autogeno, come citavo prima, certe forme di meditazione, non sto parlando di tecniche New Age, ma Ma sono sono proprio tecniche. assodate, anche asseverate dal punto di vista scientifico, come Nicoletta citava prima Kabat-Zinn. Kabat-Zinn è uno psichiatra inglese e ha condotto studi proprio a questo proposito. E poi, oltre alle tecniche di rilassamento, al nostro ascoltatore possiamo anche suggerire una regolare e attività fisica data proprio cercata su misura per lui, prescritta su misura per lui, il tipo di attività fisica con l'intensità e la frequenza giuste. Assolutamente, È sappiamo che un'antinausea. sappiamo che l'attività fisica ha dei grandi benefici, si parlava prima della serotonina, l'attività fisica permette anche di produrre, Ecco, a incrementare il livello di prima di serotonina. dare la linea alle informazioni sul traffico, io so che i consigli allora sembrano banali, no? Perché uno dice ho nausea perché sono stressato, cosa posso fare? E il dottor Sterzi dice tecniche di rilassamento, training autogeno, la mindfulness, l'attività fisica. Uno dice beh, questo lo so. Ecco, il problema è che lo sappiamo, ma non lo facciamo. Per cui ci sono delle cose molto semplici che noi, proprio perché conosciamo, diciamo vabbè. Questa qua la so, invece tra sapere e fare lo sappiamo che c'è una differenza. Esatto, però se te lo dice il medico, loro ti ascoltano. Il familiare che continua a dirlo tutti i giorni, le stesse cose, non viene Infatti considerato. si dice: non me l'ha mica detto il medico. 800 24 00 24. Se volete parlare con la dottoressa Salvioli e il dottor Sterzi, se volete raccontarci come va la coppia, noi siamo qua. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, Fernanda, buongiorno, ribuongiorno, l'abbiamo ripescata. Ecco, Sì, buongiorno, già buongiorno lei è così Nicoletta. fortunata che abita a Venezia. Perché? Sì, e beh, e poi oggi è una bellissima giornata, Nicoletta, proprio bella. Su e giù per le calli. Senta una cosa, io allora, il mio problema, io ho un colon irritabile già da tanto tempo, però una cosa è che io riesco anche a, non dico curarmi, ma insomma Però lo cerco di tiene a eliminare bada. certi alimenti così che mi danno dei periodi di diarrea, i periodi di stitichezza. Però quello che a me sta a cuore è quando io non so, una partenza, o degli esami, quando avevo degli esami alla scuola in passato, quando le mie figlie, per esempio, hanno fatto l'esame per entrare all'università, io la dovevo portare, insomma, io mi devo fermare e andare in bagno. È così, eh? È così, dottoressa È Salvioli, così. perché il cervello ci fa agitare, la pancia non sta più ferma. Esatto. La cosa migliore, secondo me, proprio come dice la signora Fernanda, è io ormai ci convivo, cioè convivere e conoscerci a fondo è la migliore terapia. Io dico sempre che i medici migliori dei pazienti sono proprio i pazienti stessi, perché loro lo sanno già, sanno come coccolarlo questo intestino. È chiaro che in situazioni di estreme, come può essere questo tipo di stress, l'unica cosa che posso suggerire sono anche dei rimedi naturali che tranquillizzano, tipo la melissa in tintura madre, che si può prendere per calmare e appiattire un po' le funzioni dell'intestino. Chissà se la melissa piace al nostro dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Melissa per l'intestino? Ci suggerisce la dottoressa Salvioli, ma lei che cosa mi aggiunge? Beh, io direi che un trattamento utile quando la pancia è gonfia, irritata o si fa sentire può essere l'argilla. Argilla. Di argilla dove, quale e come? Allora, io consiglierei l'argilla verde, mm-hmm, e la metodica per utilizzarla è proprio un cataplasma d'argilla da farsi nell'addome. Sì. È molto semplice prepararlo, in quanto basta un recipiente, si mette dell'argilla e poi con l'acqua si stempra finché diventa una giusta consistenza. Una pappettina, insomma. Una polentina. Una polentina, è già giusto perché lei arriva da lì, eh? Esatto. Una polentina. Mm. Dopodiché può essere applicato direttamente nell'addome e lasciato per un paio d'ore. L'argilla ha proprio queste proprietà decongestionanti, sfiammanti, ma soprattutto anche sgonfianti. Quindi se abbiamo la pancia gonfia e facciamo un bel impacco d'argilla, questo ci dà un sollievo immediato. Questa polentina la mettiamo tra due teli, deve essere tiepida, la mettiamo di che temperatura? Non bruciamoci la pancia, eh? Allora, l'ideale sarebbe utilizzare l'acqua a temperatura ambiente, acqua fresca, perché così migliora l'effetto decongestionante. Ovviamente deve essere applicata lontano dai pasti, certo. Non va utilizzata durante il periodo mestruale per la donna, mm-hmm, e è sempre indicato comunque avere le estremità calde, quindi mani e piedi devono essere caldi proprio per beneficiare di questo effetto termico dato dall'argilla. Dottor Temporin, fantastico. Allora, polentina d'argilla fredda per sfiammare l'intestino e anche il cervello ci guadagna. Grazie, dottor Temporin. Ci sentiamo presto. Andiamo a Padova. C'è Alessandro. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Volevo raccontarvi una piccola esperienza. Sì. Fino a un paio d'anni fa soffrivo di gastriti incredibili, per cui poi utilizzavo tutti i inibitori di pompa, Malox e così via. Ma parlando col medico, il medico mi ha chiesto quanto tempo dedicavo a me stesso durante la giornata. Io ho risposto mezz'ora, il quarto d'ora in bagno la mattina e il quarto d'ora in bagno la sera. E il medico mi ha consigliato di dedicarmi a un'attività sportiva in cui il cervello fosse impegnato in modo rilassato. E mi sono dedicato al tiro a piattello. Bravo, e com'è andata? Nell'arco di 15 giorni ho buttato via tutte le medicine. Sì. Completamente. Mm-hmm. E ringraziando Dio sono anche diventato bravetto e ho cominciato a vincere anche qualche gara. Bravetto, bravone Alessandro. Allora, ecco, questo è proprio perché in effetti quando c'è uno stress emotivo ma anche lavorativo, dedicarsi a qualcosa in cui è il cervello che comanda forse aiuta anche poi lo stomaco a rilassarsi. Una splendida testimonianza, ringraziamo Alessandro, e che ha reso anche felice il dottor Sterzi, che dottor Sterzi vuole intervenire? Sì, perché ringrazio anch'io Alessandro perché ci ha fornito la dimostrazione di quello che in continuazione abbiamo detto e che è un po' una situazione paradossale, cioè la gente cerca la pillola per stare meglio, ha viceversa delle opportunità e delle possibilità facendo lo sport, dedicandosi agli hobby o comunque utilizzando meglio il proprio cervello ed il proprio corpo, che sono interconnessi ed uniti, non sono due cose distinte. Abbiamo tutto per stare bene, bisogna usarlo. Dottoressa Salvioli, dottor Sterzi, grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e a Laura Faggin in redazione. A domani. Essere e benessere.